Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. Terza puntata. Tornammo indietro verso la città, fratelli, ma quando eravamo ormai vicini, a due passi di quello che chiamavano il canale industriale, locchiammo che l'ago della benzina aveva avuto un collasso, proprio come l'ago delle nostre gufate, e l'auto stava tossendo. Niente di preoccupante, comunque, perché c'era una stazione ferroviaria con una luce blu intermittente, luce buio, molto vicina. Il punto era se lasciare che i rozzi rabattassero l'auto o, dato che eravamo in vena d'odio ed omicidio, dargli un bel trussone nelle vecchie acque per fare un grosso magnifico splash come chiusura di serata. Ci decidemmo per quest'ultima soluzione, così scendemmo e, marcia in folle, tutti e quattro la trussammo sull'orlo di quell'acqua lurida che sembrava melassa mescolata a prodotti di buco umano. Poi via, una gran trussa cinebrivido e lei andò giù. Facemmo un balzo indietro per paura che ci schizzasse la sporcizia sulle palandre, ma lei fece splash e glop e andò sotto che era un piacere. «Addio, vecchio Soma!» gridò Giorgi, e Bamba si inchinò con una grande ragliata clownesca. Poi ci avviammo verso la stazione per farci portare nel center, come si chiamava il centro della città, che era la prima fermata. Pagammo cortesemente i nostri biglietti e aspettammo cheti e tranquilli sulla piattaforma, col vecchio Bamba che scapricciava con i biliardini, avendo le gaioffe zeppe di trucciolo, pronto a distribuire, se necessario, tavolette di cioccolata ai poveri e agli affamati, ma non ce n'erano in giro. E poi il vecchio Express arrivò rumorosamente, e noi ci arrampicammo sopra ed era quasi vuoto. Per passare il tempo in quei 3 minuti di tragitto, scapricciammo un po' con la tappezzeria, facendo un bel lavorino con le budella del sedile, e il vecchio Bamba prese lo sguardia a colpi di catena finché il vetro si fracassò e scintillò nell'aria invernale, ma ci sentivamo tutti un po' sgarrettati e sbasiti e fanè, avendo avuto una serata con qualche dispendio d'energia. Solo Bamba, da quel clownesco animale che era, sembrava ancora molto sviccio, ma era tutto saloppo e aveva troppa sniffa di sudore addosso, una cosa che io non gli perdonavo al Bamba. Scendemmo al center e tornammo lentamente al Corova Milk Bar, facendo tutti dei gran Yahoo ed esibendo le nostre otturazioni alla luna e alle stelle e alle lampade, perché eravamo ancora dei malcichi che stavano crescendo e durante il giorno andavamo a scuola. E quando entrammo al Corova era più affollato di quando eravamo andati via. Ma il Martino che stava tavanando per il suo bianco o sintemesc o qualsiasi cosa fosse era ancora in orbita e faceva porcospini di stampo vuoto nella strada strudel splendono di tempo platonico. Era probabile che fosse al suo terzo o quarto bicchiere, perché aveva quell'aspetto pallido e inumano come se fosse diventato una cosa e la sua biffa sembrava un pezzo di gesso scolpito. Però, se lui voleva passare tanto tempo in orbita, avrebbe dovuto andare in uno di quei cubicoli privati del retro e non rimanere lì nel sosto grande, perché c'erano dei malcichi che avrebbero potuto anche scapricciarlo un piccolo poco, ma non troppo, tuttavia, dato che nel vecchio Corova erano nascosti dei forzuti spaccatutto pagati per far cessare le risse. Comunque, Bamba si infilò accanto a questo Martino e col suo gran forno spalancato che gli si vedeva l'ugola, dette un gran pestone sul piede di questo Martino con la sua grossa sudicia saboga. Ma il Martino, o fratelli, non sentì nulla, essendo ormai tutto fuori dal corpo. C'erano soprattutto moschetti che lappavano mommo o coca e scapricciavano fra loro. I moschetti, come li chiamavamo, erano gli adolescenti o teenagers, ma c'era anche qualcuno più bigio, ma nessun bourgeois, mai. Martini e semprocchie che ridevano e sprolavano al bar. Si capiva dalle loro coiffure e dalle palandre comode, grossi maglioni pelosi per lo più, che venivano dalle prove agli studi TV dell'angolo. Le quaglie del gruppo avevano queste biffe accese e trugli grandi e larghi, molto rossi, con un mucchio di denti, e gufavano come se non gliene importasse un accidenti di questo porco mondo. E poi il disco sullo stereo finì e si zittì. Era Johnny Zivago, un Russovsky che cantava solo a giorni alterni, e nella specie di intervallo, il breve silenzio prima che ne cominciasse un altro, una delle quaglie, molto bionda e con un gran truglio rosso e sorridente sui 35 circa, improvvisamente esplose a cantare. Solo una battuta e mezzo, come se desse un esempio di qualcosa di cui stavano sprolando prima, e fu come se per un momento, oh fratelli, qualche grande uccello si fosse messo a volare dentro il milk bar, e io sentii tutti i migni peletti delle mie macerie che si drizzavano in punta, e i brividi mi strisciarono addosso dappertutto come lente lucertole, prima su e poi di nuovo giù. Perché sapevo cos'era che lei stava cantando. Era da un'opera di Friedrich Grittenfenster, chiamata Das Bettzeug, ed era il pezzo dove lei, con la gola tagliata, sta chiudendo con la vita, e le mottate sono «Forse è meglio così». Comunque, io rabbrividii. Ma il vecchio Bamba, appena snicchiò questo brendolo di canzone, che era tipo una trincia di carne rossa sbattuta sul piatto, lasciò andare una delle sue volgarità, che in questo caso era una tromba labiale seguita da un'abbaiata, seguita da due dita puntate due volte per aria, seguita da una ragliata clownesca. Io, locchiando e snicchiando la volgarità di Bamba, mi sentii improvvisamente tutta una febbre e mi sembrò di stare annegando in un bagno di sangue bollente e dissi «Bastardo! Sporco coglione maleducato d'un bastardo!» Poi mi sporsi sopra Giorgi, che era tra me e l'orribile Bamba, e gli mollai al lampo un festone sul truglio. Bamba fece l'aria stupita, il truglio aperto, asciugandosi il sangue dalle lerfie con la granfia e guardando a turno me e la salsa rossa che colava. «Per cosa l'hai fatto a fare?» mi domandò con la sua parlata da ignorantone. Quello che avevo fatto l'avevano locchiato in pochi e quelli che l'avevano locchiato se ne sbattevano. Lo stereo era di nuovo in funzione e stava suonando una trucca nauseante per chitarra elettronica. Io dissi, perché sei un bastardone maleducato e non hai una riga d'un'idea di come ci si comporta pubblicamente, fratello mio. Bamba mise su un'aria malvagia a Friggibuco, dicendo, allora a me non piace che tu faccia quel che hai fatto e non sono più tuo fratello per niente, non voglio nemmeno esserlo. Aveva preso di tasca un grande garzuolo tutto moccicoso e si stava asciugando il gocciolio rosso, continuando a guardarlo tutto stupito e ingrugnito, come se il sangue andasse bene per gli altri ma non per lui. Era come se volesse cantare sangue per rimediare alla sua volgarità verso la quaglia che cantava musica. Ma questa quaglia stava gufando ha ha ha con i suoi soma al bar, col truglio rosso che macinava e gli zucchi scintillanti, e non si era accorta di nulla. Ma era a me che Bamba aveva mancato di rispetto. Dissi, se non ti piace questo e non vuoi quell'altro, allora sai benissimo quello che puoi fare, fratellino. Giorgi, in un modo così brusco che mi voltai subito a guardarlo, disse, basta, non cominciamo, è tutta colpa di Bamba, dissi. Bamba non può continuare tutta la sua 6 giorni a comportarsi come un bambino. E guardai dritto Giorgi. Bamba disse, e adesso la salsa non scorreva quasi più, ma che diritto ha di dare ordini e di festarmi quando gli pare e piace? Sai cosa ti dico? Mi ha proprio rotto le berte e sono pronto a sbattergli la catena sui fari, ecco. Guardatene bene, dissi, a voce più bassa che potevo, con lo stereo che rimbalzava su tutte le pareti e il martino in orbita accanto a Bamba, che ora stava tavanando più forte col suo brilla più vicino estremultimo. Io dissi, guardatene bene, oh Bamba, se in vita ancora ambisci di restare. Berte, disse Bamba, sbuffando ironico. Gran berte straberte. Il diritto di quel che hai fatto non ce l'avevi. Sono pronto per un incontro con la catena o lo sgarzo o la lisca e siccome tu mi molli dei festoni senza motivo, non c'è motivo che io li pigli. Una partita di lisca quando vuoi, gli ringhiai di rimando. Pete disse, oh, piantatela, tutti e due. Siamo soma, no? Non va bene che dei soma si comportino a questo modo. Guardate, laggiù ci sono dei malcicchi sboccati che ci stanno a locchiare e gufano. Non dobbiamo far brutta figura. Bamba, dissi, deve imparare a stare al suo posto. Va bene? Aspetta un po', disse Giorgi. Cos'è questa storia di stare a posto? È la prima volta che sento dire di qualcuno che impara a stare al suo posto. Pete disse: «Per la verità, Alex, tu non avresti dovuto dare al vecchio Bamba quel festone non richiesto. Lo dirò una volta e non più. Lo dico con tutto il rispetto, ma se tu l'avessi dato a me avresti dovuto rispondere. Non dico altro». E affondò la biffa nel suo bicchiere di latte. Dentro mi sentivo tutto frappè, ma cercai di nasconderlo e dissi, calmo: «Un capo ci deve essere. Ci deve essere disciplina. Dico bene?» Nessuno di loro banfò una parola né fece un segno col capo. Dentro mi sentivo sempre più frappè, ma fuori ero molto calmo. «Io», dissi, «sono ormai il capo da molto tempo. Siamo tutti soma, ma qualcuno deve assumere il comando. Dico bene?» «Dico bene?» Fecero tutti di sì col capo, con l'aria come annoiata. Bamba si stava sgromando le ultime gocce di salsa. Ora fu Bamba che disse: va bene, ben, ben, ben. Siamo tutti un po' stanchi, forse. Meglio non parlare più». Io mi stupii e mi sentii un piccolo poco grippato a snicchiare Bamba sprolare così da saggio. Bamba disse: «Forse abbiamo bisogno di Nanna adesso. Così è meglio andare a casina. Dico bene?» Io ero molto stupito. Gli altri due fecero «va bene, va bene, va bene» con la testa. Io dissi: «Devi capirmi per quel festone sul truglio, Bamba. Era la musica, vedi? Io divento scardinato quando un martino interferisce con una quaglia che canta. È così che è successo». «Meglio andare a casa a ciocchire un po'», disse Bamba. «È stata una serata un po' lunga per dei malcichi che devono crescere. Dico bene?» «Va bene, va bene», annuirono gli altri due. Io dissi: «È un consiglio cinebrivido, Bamba. È davvero meglio andare a casina. Se non ci vediamo in giornata, fratelli, allora stesso posto, stessa ora domani?» «Sì», disse Giorgi, «credo di farcela». «Io», disse Bamba, «potrei essere un piccolo poco in ritardo, ma ci sto». Si stava ancora asciugando le lerfie, anche se non sanguinavano più. «E speriamo», disse, «che non ci siano più quaglie canterine domani». Poi fece la vecchia gufata da Bamba, un grande clownesco ho ho ho ho ho ho. Era come se fosse troppo Bamba per offendersi sul serio. Così andammo ciascuno per la propria strada, io ruttando arg per la coca fredda che avevo glutato. Tenevo la lisca sotto mano in caso ci fosse qualche somma di Billy Boy ad aspettarmi dietro l'angolo, o anche qualsiasi altra ganga o banda o quadriglia o ghega con la quale ogni tanto eravamo in guerra. Io abitavo col mio papi e mammi negli alloggi del Municipal Flat Block 18A, tra la Kingsley Avenue e la Wilson Way. Arrivai al portone principale senza aver avuto seccature, sebbene mi imbattessi in un giovane malcico che scricciava e si lamentava e strisciava nel rigagnolo, fratelli miei, e alla luce dei lampioni avevo visto delle striature di sangue qua e là come fossero firme. E vicino al 18A vidi anche un paio di paruzzole da quaglia che evidentemente erano state strappate via nella furia del momento, oh fratelli. E così fui dentro. Nell'atrio c'era il buon vecchio dipinto municipale su tutte le pareti, martini e semprocchie molto ben sviluppati, curvi sui banchi da lavoro o sulle macchine, con aria severa e dignitosa, ma senza ombre di palandre sulle robuste macerie. Naturalmente, come c'era da aspettarsi, qualcuno dei malcichi del 18A aveva abbellito e decorato il detto affresco con biro e matite, aggiungendo peli e affari dritti e fumetti di mutate sconce che uscivano dai dignitosi trugli di questi martini e quaglie spalandrati. Andai all'ascensore, ma non c'era bisogno di premere il chiamino elettrico per vedere se funzionava o no, perché quella notte l'avevano festato proprio cinebrivido, con le porte di metallo tutte piegate, una prova di forza davvero eccezionale. Così dovetti farmi tutti i 10 piani a piedi. Salii bestemmiando e ansimando, perché ero stanco di macerie se non di cervello. Quella sera avevo una voglia di musica da morire. Forse era stata quella quaglia canterina del Corova a mettermela addosso. Volevo un'orgia di musica prima di farmi timbrare il passaporto alla frontiera del sonno, fratelli, e prima che il cancello a strisce si alzasse per farmi passare. Aprì la porta del 18 con la mia piccola cruccia, e dentro ai nostri mini quartieri tutto era silenzioso, perché il P e la M erano in sognolandia e mamma mi aveva lasciato sul tavolo la mia mignia cenetta, un paio di spesse di pancarne in scatola e una trincia o due di borombo e burro e un bicchiere di mommo freddo. Oh, oh, oh, il vecchio mommo senza coltelli né sintemes né drenacrom. Ormai qualsiasi innocente bicchiere di latte mi sembra ambiguo, fratelli. Comunque bevvi e mangiai ringhiando, perché avevo più fame di quel che credevo, e presi anche la torta di frutta dalla dispensa e me la ficcai a pezzi nel truglio, avidamente. Poi mi pulii i denti con la slappa, facendola schioccare, e andai nella mia tana, liberandomi delle palandre mentre camminavo. Qui c'era il mio letto e il mio stereo, orgoglio della mia 6 giorni, e i miei dischi nell'apposito armadio, e bandiere alle pareti, una specie di ricordo dei giorni del correzionale da quando avevo 11 anni, fratelli, ognuna contrassegnata dal nome o dal numero. Sud 4, divisione Metro Corscol Azzurra, i ragazzi di Alfa. I piccoli altoparlanti del mio stereo erano disseminati per tutta la stanza, sul soffitto, sulle pareti, sul pavimento. E così, quando ascoltavo la musica disteso sul letto, ero come intrappolato e impigliato dentro l'orchestra. Ora, quello che mi andava di sentire quella sera era il nuovo concerto per violino dell'americano Geoffrey Plautus, suonato da Odysseus Kyrillos con la Macon Georgia Philharmonic. Così lo feci scivolare fuori dalla fila ordinata degli altri dischi e lo misi su e aspettai. Poi, fratelli, venne. Oh, estasi, estasi celeste! Giacevo tutto spalandrato verso il soffitto, il planetario sulle granfie, fari chiusi, truglio aperto per la beatitudine, snicchiando il fiotto di suoni meravigliosi. Oh, era magnificenza e magnificità fatte carne. I tromboni sgranocchiavano oro rosso sotto il mio letto e dietro il planetario le trombe fiammeggiarono argento per 3 volte e là vicino alla porta i timpani rotolarono dentro le mie viscere e poi uscirono e si sgretolarono come tuoni di zucchero. Oh, era la meraviglia delle meraviglie. E poi, come un uccello dei più rari che vorticava metal celeste o come vino d'argento che scorreva dentro una nave spaziale con la gravità che non aveva più senso, arrivò il violino solista sopra tutti gli altri archi e quegli archi erano una gabbia di seta intorno al mio letto. Poi il flauto e l'oboe perforarono come vermi di platino la spessa, grossa caramella oro e argento. Ero in piena estasi, fratelli. P e M, nella camera accanto, avevano ormai imparato a non bussare sul muro per lamentarsi di quello che chiamavano rumore. Gliel'avevo insegnato io. Ora avrebbero preso i sonniferi. O forse, sapendo la gioia che mi dava la musica di notte, li avevano già presi. Mentre snicchiavo, i fari ben chiusi per chiudere dentro la beatitudine che era meglio di ogni zio o dio da sintemesc, avevo delle belle visioni. C'erano dei martini e delle quaglie, giovani e bigi, distesi per terra, che chiedevano pietà urlando, e io che gufavo a truglio spalancato e gli maciullavo le biffe con lo stivale. E c'erano delle mammole a brandelli e scriccianti contro il muro, e io che mi immergevo come una daga dentro di loro, e infatti, quando la musica, che aveva un movimento solo, salì in cima alla sua torre più alta, allora, disteso lì sul letto con i fari serrati e le granfie sotto il planetario, mi frantumai e spruzzai e gridai «Ah!» per l'estasi di tutto quanto. E così quella bellissima musica scivolò verso la sua fine luminosa. Dopo misi il magnifico Mozart, la Jupiter, e ci furono altre visioni di biffe da essere maciullate, spiaccicate, e dopo quello pensai che mi ci voleva un ultimo disco prima di passare la frontiera, e volevo qualcosa di bigio e forte e molto fermo. Così misi J.S. Bach, il concerto brandeburghese solo per viole e violoncelli. E snicchiando con una specie d'estasi diversa da prima, locchiai di nuovo il titolo sul foglio che avevo sciancato quella sera. Sembrava tanto tempo fa, in quel cottage chiamato Casa Mia. Riguardava una certa Arancia Meccanica. E ascoltando quel J.S. Bach, cominciai a azzeccare meglio quello che voleva dire e pensai, continuando a snicchiare la magnificenza bruna del bigio maestro tedesco, che mi sarebbe piaciuto averli festati più forte, tutti e due, e averli fatti a pezzi, lì, sul loro stesso tappeto. Marco Cavalcoli ha letto Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.